Ore 7 spaccate dai microfoni di Rock FM, il buongiorno dalla voce del DJ Ariele. Andiamo a cominciare la puntata numero 130, credo, se ricordo bene. Chiedo al mio regista Marco Garavelli la sigla! Oggi abbiamo un inizio tutto nuovo, tutto particolare. Restate con noi, ne sentirete delle belle! Pane, burro e rock and roll, la tua colazione rock. Pane, burro e rock and roll. It's very good indeed. Se cerchi una radio che fa rockeggiare, ecco l'hai trovata, no, non la cambiare. Pensa che fortuna l'averci incontrato, ogni giorno alla mattina ascolta Rock FM. Allora, parecchie novità per l'inizio puntata di stamane. La prima è che il nostro Spadino viene sostituito da Marco Garavelli. La seconda che ho subito degli ospiti. I più fedeli sanno che spesso e volentieri ci mettiamo in contatto con Carlo della tabaccheria, e do subito il buongiorno a Carlo. Ciao, che ciao è venuto a tutti qui nei nostri studi. E altri sanno che abbiamo invece una radioascoltatrice che ci ascolta solo e unicamente perché diamo i numeri del lotto, e si chiama Carla. Buongiorno signora Carla. Buongiorno. Oggi è venuta a trovarci. Sì, sono venuta a trovarvi e vi ho portato un regalo. Ci ha portato la torta! La torta di Rock FM fatta con le sue sante mani. Alle mele, vero? Alle mele, sì. Ma quindi lei è una brava cuoca? Sì, mi arrangio. Si arrangia? Ce l'ha portata perché si sta affezionando un po' a Rock FM. Sì, ma non dovete prenderlo di vizio, eh? Che una volta è abbastanza. A venire. La vedo già pronta con... Lei ha un foglietto. Che cos'ha in mano? Allora, ho il foglietto della torta. Nel senso che... I numeri della torta. Allora, stiamo per dare i numeri del lotto di giovedì, che in teoria doveva darli Carlo. Sì, però... E invece le da Carla. Esatto. Anche perché, mi permetta di sgridare Carlo, di solito Carlo la butta lì, dà dei numeri, non dai mai le ruote. Sì, questo è vero, anche perché purtroppo se si dovesse giocare anche su ruota fissa, già è difficile su tutte. Ho capito, però Carla glielo dica, bisogna darle no, le ruote. No, Carlo, noi dobbiamo dare solo un ambo. Te sei fissato col terno, ma non prendi mai niente. Esatto. Poi puntiamo per vincere tanto, insomma. Sì, quelli là dicono si vince tanto e vinci mai un cazzo. Esatto, il primo dibattito radiofonico su Rock FM riguarda i numeri del lotto che ci interessano particolarmente. Tra l'altro, e voglio dare un altro punto a favore della signora Carla, c'è sempre una sorta di fantasia molto sviluppata nel dare la città. Perché per esempio lei è Carla e da Cagliari, ricordo bene? Sì. Oppure me ne ha inventata anche un'altra l'altra volta. Ha detto Bari, non mi ricordo perché. Bari perché era quelli di quei musicisti là. Ah, perché era Beatles, è vero. Perché Beatles e Bari. Perché BB, una roba di questo tipo. Sì, sì. Carta e penna, amici, là fuori, perché stiamo per dare i numeri della torta. Della torta, ma prima da dare i numeri della torta, sì, mi permette una cosa? Ma signora Carla, lei è Rock FM è sua. Devo salutare una stronza. No, ma non, ma non dica così, no, che no, si offende. Perché io ieri sera ce l'ho detto. Io ti saluto, ma ti do dalla stronza. Fatto bene. Allora, saluto tanto la mia amica Andrea, che è stronza. Ma di dov'è la signora Andrea? A Sesto. E è riuscita a trovarla frequentemente? E abbiamo fatto un po' di casino, far sentire dove era, dove non era, perché non trovava mai niente. E invece adesso l'ha trovata. Sì, sì. Buongiorno signora, chiamo, saluto anch'io Andrea, sì, e chiedo scusa per la stronza. No, che no, le... va bene così. La signora Carla è rock, sì, è ufficiale, quindi può permetterselo. Sì, sì. Carta e penna, i numeri. Carta e penna, i numeri della torta. Perfetto. La torta di mele porta il numero 6. Ma proprio specifico? Sì, bisogna specificare. Ma nel senso che se era una torta ai lamponi? Si cercava... Un altro numero, 6, quindi 6, perfetto. Il complotto di amici che siamo noi... Però un complotto positivo. Sì, no, siamo... per fare questo casino dobbiamo farlo. Il complotto che numero è? 86. 86. 6, 86. E il mio amico Carlo mi ha messo dentro ancora me. In che senso? Che Carla e la paura fa 90. Ma come cade la paura? Davvero è una paura, è un disastro. Ha detto che io avevo paura di venire qua a trovarmi. E invece eccolo qua. Cosa dici, allora, Carlo? È il 90. Beh, quindi dobbiamo abbiamo dare le ruote. Le ruote. Lei più di una? No, una. Ne diamo una. Una. Torta diamo. Torino. No, ho sì. detto una cazzata. Poteva starci? Sì. No, mi è venuta così spontaneo. Sì, ma no, torta però Torino. No, però lei aveva segnato un'altra. No, stavo guardando. Ma che, dica cosa aveva segnato lei. Milano. Milano, perché Milano. Siamo a Milano. Siamo a Milano. Era logico. Però facciamo così, Torino e Milano. Torino, Milano, doppia ruota, 6, 86, 90. Sì. Me li ricordo già a memoria, signora. Questi si ricordano i numeri. Andrea, li hai segnati? Non chiamarmi ancora al telefono dopo, Che spende pure i soldi. Al massimo la chiamiamo noi più tardi. No, intanto, va bene così, Andrea, te saluti. Faccio ascoltare un brano ai nostri radioascoltatori. Se voi volete restare qua ancora qualche minuto, siete sempre ben accolti. Dobbiamo scappare anche noi. Abbiamo da andare a lavorare. Allora volete salutare? Sì, dai, salutiamo. Signora Carla, ci fa una rubrichetta su pane, burro e rock and roll, per favore? Cosa ti devo dire? Facciamo una rubrichetta di tarocchi. Una cosa no, così. Non sono capace a fare i tarocchi. E proprio per questo, ma noi rocker non dobbiamo saper fare le cose. Non sappiamo. Ci lavoriamo. Sì, ci lavoriamo. Penseremo. Va bene. Arrivederci. Grazie per la torta, signora prego, Carla. Prego, prego. E di nuovo scusa ad Andrea. No, no, va bene. Se Andrea, va bene. Le ho detto a lei invece di dirmela a me, insomma, dai. Grazie. Sì, è un po' per uno. Sempre a me, Carlo. Grazie a Carlo, grazie a Carla. Sette, nove minuti primi. Ragazzi, che inizio. Questo è un regalo che Pane, Burro e Rock and Roll fa, ha fatto ai primi, a quelli che si sintonizzano da subito, i miei radioascoltatori preferiti. Intravedo come potevo immaginare già i primi commenti. La signora Carla ha dato i numeri, io, guardate, ve lo dico, è con invidia che gli amici che si sintonizzeranno poi più tardi rosicheranno perché non hanno potuto ascoltare i numeri della signora Carla. Ah, che giornata! Giovedì 15 di novembre, torna in postazione il nostro Spadino. Bentornato Spadino, eh? Abbiamo lasciato andare Garavelli, c'era un SMS che chiedeva: Garavelli, è una punizione o un premio fare il regista pane, burro e rock and roll? No, è una punizione, è una punizione. Siete da telegatto delle radio. Un mito la signora Carla, viva i numeri, ma soprattutto la torta. Vi ricordo le coordinate. Buongiorno, questo è Pane, Burro, Rock'n'Roll, una trasmissione dove può accadere un po' di tutto, anche quello che avete sentito. 335 100 7777, oppure ariel@radiorockfm.com. Tra pochissimi istanti dovrebbe arrivare anche quel folle di Roberto Friccantoni. Ragazzi, abbiamo fatto 30, facciamo 31, no? Perché non proseguire con la follia, no? Che è il fil rouge di questa trasmissione. Buona giornata! Con pane, burro e marmellata inizia la giornata. Ma se ci aggiungi rock and roll diventa una figata. Il Lombroso si regalano questo gingolino acustico. Lombroso che suoneranno questo sabato sera al Sonar di Colle Valdelsa, provincia di Siena, dove ci sarò anch'io a mettere i dischi, quindi ritroverò gli amici Lombroso. Avete bisogno della spinta giusta per affrontare questo giovedì 15 di novembre? Credo di avere qualcosa che può fare per voi. Mentre vado a sbaffarmi la torta della signora Carla, voi vi gustate gli Who. Yeah! Thank you. jeudi. Si dice jeudi in francese? Ma, ho detto una cazzata. Boh, hai sì. studiato francese, Isacco? Jeudi, sì. Bene, allora jeudi. Jeudi 15 novembre. Giovedì 15 novembre. Complimenti. Grazie. Complimenti. Buongiorno Roberto Fricantoni. Buongiorno Ariele. Eccoci qua ai microfoni di Rock FM. Qualche buona idea per iniziare la puntata quest'oggi? Ma io resterei sul classico. Ovvero? Farei l'almanacco. Ottima idea. Trasferiamoci al 15 novembre del 1921, dove si registra il primo volo del dirigibile Roma, fabbricato in Italia su progetto di Umberto Nobile e in dotazione all'esercito degli Stati Uniti. Ah, maledetti. Ma guarda sti qua, stavolta di già più. Ci avevano fregato la pizza, già ci avevano fregato il mandolino, pure il dirigibile Roma, anche lo spaghetto, le ricordo, maestro, anche lo spaghetto. Adesso il dirigibile Roma, progettato da Umberto Nobile. Andiamo. Forse quello della spedizione al Polo Nord. Aia. Lì. Isacco, non far finta di nulla. Forse quello della spedizione del Polo Nord? Dice di sì. Ah, allora sì. Annuisce il nostro stagista. Stacanovista. Andiamo con qualche buona notizia che arriva dall'America. 15 novembre del 56 usciva nelle sale cinematografiche il primo film in cui compare Elvis Presley. Si trattava di Love Me Tender, Love Me Sweet. Love Me Tender. No, ma la stavo tender, già facendo io. Love Me Sweet, never let me go. 1960, torniamo in Italia dopo lo scandalo per la presunta oscenità dell'opera teatrale La Rialda, venata di tematiche omosessuali. Il regista Luchino Visconti e gli attori Rina Morelli, Paolo Stoppa e Umberto Orsini si rivolgono al presidente della Repubblica, l'allora Giovanni Gronchi, per protestare contro la censura e contro il divieto di rappresentazione dell'opera. Il presidente si rifiuta di riceverli. Ecco, giustamente. No, ma come? Vero? Giustamente, è vero? Ma perché no, il presidente Gronchi era persona seria ed affidabile. Ho capito, ma un vero professionista. Ho capito, ma cosa c'aveva di male contro l'omosessualità nel 60? Beh, diciamo che nel 60 gli omosessuali, allora come ora, erano un po' troppo invadenti. Dice Mike Bongiorno. Come gli alieni. Lei si cela dietro Mike Bongiorno per essere un filo razzistello, eh? Assolutamente no. Non sono io ad essere razzista. Sì? Sono loro ad essere culattoni. Ma aspetta, maestro, per favore mi faccia chiudere. 1969, incredibile, a Tampa, in Florida, Janis Joplin viene fermata dalla polizia dopo un concerto e accusata di aver usato un linguaggio volgare ed indecente sul palco. Sarà rilasciata su cauzione di $500. Lei non è mai stato multato per volgarità e oscenità sul palco? Beh, sono stato quasi arrestato, devo dire, per la canzone Carabiniere Blues. E ne vado fiero, oh sì, ne vado fiero. Complimenti, maestro. La ringrazio. In quell'occasione salì sul palco Red Ronnie e mi sussurrò all'orecchio: i carabinieri stanno per arrestarti. Quanto avrei voluto essere lei. Sa che era il 15 novembre? No, non dica stupidate. Sì, sì. Oggi abbiamo festeggiato il 15 di novembre. Pillolina? Oggi abbiamo festeggiato pillolina, il 15 va bene. Di novembre. Buon appetito. Piatto pulito. E beh, che c'è?